Riprendiamo le letture da Zio Tungsteno. Quanto è bello sto titolo, Zio Tungsteno, che sembra quasi una bestemmia dei bambini delle medie. E l'altra volta avevamo letto di Boyle, e questa volta invece volevo leggere, sempre dallo stesso capitolo, invece la storia che Oliver Sacks ci racconta di Lavoisier, che è il papà di tutta la chimica. Prima però vi volevo leggere come si apre il capitolo Un linguaggio chimico, che è quello da cui il capitolo 10 di questo libro dal titolo appunto Zio Tungsteno. E questo capitolo si apre con una frase che a me è piaciuta molto, perché delinea un interesse, diciamo, a tutto tondo per le materie scientifiche. E in particolare per la storia delle stesse, per la comprensione dell'ambiente in cui si svolgono gli accadimenti, per la società che vi sta attorno, che è una cosa che in realtà c'è molto poco, ed non è un approccio simile a quello molto contemporaneo. Cioè, noi partoriamo un sacco di informatici e di ingegneri che nulla sanno della storia del pensiero scientifico, pochissimo si interessano di quello che gli accade attorno e delle ricadute sociali del loro mestieraccio. Invece Oliver Sacks scriveva: Zio Dave, che sarebbe lo zio Tungsteno, considerava tutta l'impresa scientifica non esclusivamente sul piano intellettuale e tecnologico, ma anche su quello umano, e a me sembrò naturale fare lo stesso. Quando allestii il mio laboratorio e cominciai a fare qualche esperimento chimico per conto mio, ero desideroso di imparare la storia della chimica in senso lato, scoprire che cosa facessero e come ragionassero i chimici, in quale atmosfera si muovessero nei secoli passati. E questa cosa secondo me è molto bella e interessante, è giusta, profondamente giusta. Per questo io sto a rompermi i coglioni a leggere per ore e ore e a raccontarvi della storia del pensiero scientifico. Ora torniamo a parlare appunto di chimici famosi. L'altra volta abbiamo letto di Boyle, questa volta leggiamo un po' di pezzettini tratti da questa storiella che Oliver Sacks ci racconta. E in particolare, appunto, oggi le leggiamo del signor Antonin Lavoisier, che è un po' il papà di tutta la chimica. Allora, Oliver Sacks scrive: prima di lui esisteva già una massa enorme di conoscenze chimiche, anche molto sofisticate, ereditate in parte dagli alchimisti. Furono loro i primi a mettere a punto le attrezzature e le tecniche della distillazione, della cristallizzazione e molti altri procedimenti chimici. In parte dagli speziali e in parte naturalmente dai primi metallurgisti e ingegneri minerari. Ciò non di meno, sebbene si fossero esplorate innumerevoli reazioni chimiche, non erano mai state effettuate in maniera sistematica misurazioni di peso o d'altro genere delle sostanze coinvolte. La composizione dell'acqua era sconosciuta come quella della maggior parte delle altre sostanze. Più che in base ai loro costituenti minerali e sali, erano classificate in base alla struttura cristallina o altre proprietà fisiche. Né si aveva un'idea chiara di che cosa fosse un elemento o un composto. Come se non bastasse, non c'era un quadro generale in cui collocare i fenomeni chimici, a parte la teoria, in certo modo mistica, del flogisto, che avrebbe dovuto spiegare ogni sorta di trasformazioni. Il flogisto era il principio del fuoco. Ora qui salto poi un pochino, perché lui racconta appunto di come questo flogisto veniva utilizzato da tutta quella che era diciamo, la pre-chimica, o almeno quello che era la chimica prima che noi la chiamassimo chimica, e che era un po' una specie di elemento magico che tu, aggiungendolo o togliendo, davi vita a tutte quelle che poi noi abbiamo iniziato a chiamare reazioni chimiche e via così. tutta questa storiella viene poi, diciamo, affrontata da Oliver Sacks, e lui ne traccia le date, diciamo, più importanti. In particolare, lui mette in risalto una data che si riferisce all'anno 1774, in cui, e ora torno a leggere, nell'estate del 1774 in Inghilterra, Joseph Priestley scoprì che riscaldando il residuo calcinato di mercurio, l'ossido mercurio rosso, l'ossido mercurico rosso, si liberava un'aria che stranamente sembrava perfino più forte e pura dell'aria comune. Una candela bruciava in quest'aria con fiamma sorprendentemente forte, e un pezzetto di legno portato al calor rosso crepitava e bruciava con rapidità prodigiosa, mostrando un aspetto simile per certi versi a quello del ferro incandescente al calor bianco ed emettendo scintille in tutte le direzioni. Affascinato, aveva indagato ulteriormente il fenomeno, scoprendo che in questa atmosfera i topi sopravvivevano 4-5 volte più a lungo. A questo punto, sicuro che la nuova aria fosse di natura benigna, aveva provato a respirarla lui stesso. La sensazione che avvertivo nei polmoni non era percettibilmente diversa da quella causata dall'aria comune, ma credo che per qualche tempo in seguito il mio respiro fosse particolarmente facile e leggero. Chissà che in futuro quest'aria pura non possa divenire un lusso alla moda. Finora solo due topi e io stesso abbiamo avuto il privilegio di respirarla. Nell'ottobre del 1774, Priestley si recò a Parigi per parlare dell'aria deflogisticata con Lavoisier. Lavoisier ripeté gli esperimenti di Priestley, li ampliò, li qualificò e li perfezionò. La combustione ormai era chiaro, non comportava affatto la perdita di una sostanza, il flogisto, ma implicava piuttosto la combinazione del materiale combustibile con una parte dell'aria atmosferica, un gas per il quale egli coniò il nome di ossigeno. La dimostrazione di Lavoisier, e cioè che la combustione era un processo chimico, un'ossidazione diremmo oggi, aveva molte altre implicazioni, e per lui rappresentò solo un frammento nel panorama ben più ampio di quella rivoluzione della chimica che aveva previsto. Lavoisier aveva dimostrato che in tali processi non c'era né creazione né distruzione di materia. Per di più, questo principio di conservazione valeva non solo per la massa totale dei prodotti e dei reagenti, ma per ciascuno dei singoli elementi coinvolti. Facendo fermentare zucchero con lievito e acqua in un recipiente chiuso per ottenere l'alcol, come egli fece in uno dei suoi esperimenti, la quantità totale di carbonio, idrogeno e ossigeno rimaneva invariata. Essi potevano riaggregarsi chimicamente, ma le loro quantità restavano immodificate. Lavoisier pensò che il linguaggio tradizionale della chimica fosse ormai inadeguato e così mise mano a una vera rivoluzione terminologica, sostituendo le antiche denominazioni pittoresche ma scarsamente informative, come burro di antimonio, bezoar di Giove, vetriolo azzurro, zucchero di piombo, liquore fumante di Libavius, fiori di zinco, con altri nomi precisi, analitici, dal chiaro significato. Se qualcosa era composto di azoto, fosforo, zolfo, diventava un nitruro, un sosfuro o un solfuro. Se grazie all'aggiunta di ossigeno si formavano acidi, si parlava di acido nitrico, fosforico o solforico. E ci si riferiva ai loro sali chiamandoli nitrati, fosfati e solfati. Se erano presenti quantità minori di ossigeno, si parlava in luogo di nitrati e fosfati, di nitriti e fosfiti e così via. Ogni sostanza, elementare o composta che fosse, avrebbe avuto così il suo nome, che ne specificava la composizione e il carattere chimico. E questi termini, manipolati come in una sorta di algebra, avrebbero istantaneamente indicato le possibili interazioni e i possibili comportamenti delle varie sostanze in circostanze diverse. Confesso che, pur capendo benissimo i vantaggi di questa innovazione, rimpiangevo un po' i vecchi nomi, perché avevano una poesia e un'efficacia nell'evocare le quantità sensibili o gli antecedenti ermetici delle sostanze, di cui non v'era traccia nei nuovi sistematici, ma del tutto privi di suggestione. Insomma, Lavoisier quello che fa è un lavoro di assoluta sistematicizzazione della chimica. Poi, in realtà, quello che gli accadrà nella vita, peraltro poco dopo aver pubblicato il suo Trattato Elementare, che era sostanzialmente un'opera, il titolo preciso era Trattato Elementare di Chimica, che egli pubblicò pochi mesi prima della Rivoluzione Francese, nel 1789. sostanzialmente ebbe un impatto sul panorama scientifico di allora, pari a quello dei principi di Newton per la chimica, però. E questo, diciamo, è la storia un po', il riassunto delle vicende di Lavoisier secondo il signor Oliver Sacks. C'è da aggiungere che, appunto, come poi rileva anche Oliver Sacks, Lavoisier viene ghigliottinato 3 anni dopo la rivoluzione francese, sarà uno dei ghigliottinati, e quindi così si conclude la sua vicenda esistenziale, che comunque ha portato, diciamo, alla creazione della chimica moderna. E quindi, con questo, diciamo, questo raccontino di ci ho messo 10 minuti come sempre a raccontare la storiella di apertura, apriamo anche questa puntata nuova di Coccoli al Silicio, la quinta, o la, no, la sesta, mi sembra, questa è la sesta puntata. Ora, dalle prossime probabilmente torneremo a parlare del positivismo, diciamo, della storia del pensiero scientifico dal positivismo in avanti, quindi magari ripigliamo un po' quel tipo di tematiche. Ora abbiamo fatto sostanzialmente dei salti nel secolo precedente, che comunque erano interessanti lo stesso per diciamo inquadrare un pochino le tematiche che mi interessa raccontarvi. E quindi ora ci ascoltiamo un pezzetto musicale e poi iniziamo con la parte più informaticosa della puntata. So I make it harder. Don't hold back. If you think about it, so many people do be cool and look smarter. Don't hold back. And you shouldn't even care about those noses in the air and the crooked stairs. Don't hold back. Cause there's a party over here, so you might as well be here with the people care. Don't hold back. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. You may stumble, trip up, fall on your face. Don't hold back. You think it's time you get up. Right. Time back to sit up, come on, keep pace. Don't hold back. Put apprehension on the back burner, let it sit. Don't even get it lit. Don't hold back. Get involved with the jam, don't be a prick. Hot chick, be a pig. Don't hold back. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. Time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, my finger is on the button. My finger is on the button. My finger is on the button. Push the button. We'll be right back. Per la parte informaticosa, questa settimana, visto che mi hanno fatto notare che l'altra parte è molto da Sacentino Sapientino, allora cercherò questa settimana di espandere la parte sull'informatica, trovando degli argomenti che spero siano interessanti. Questa volta volevo spingere un lavoro che è stato recentemente reso pubblicamente disponibile sulla lista di discussione di ECMeeting. Questa lista è attiva ormai da anni ed è la lista che è nata per organizzare l'ECMeeting, che è un incontro di hacker che si tiene ogni anno in città diverse, e qualche volta si è anche tenuto in città dove era già stato, perché la disponibilità era quella, però si tenta ogni anno di girare in posti diversi. Quest'anno l'ECMeeting sarà il 15, 16, 17 giugno, se non sbaglio, in Val di Susa. Questo non lo sbaglio, sono sicuro, la data mi sembra sia quella corretta, e sarà al campeggio di Venause, vede questa cornice montana. Siamo alle spalle in realtà del cantiere dell'alta velocità, quindi la cornice è un pochetto rovinata da delle cose brutte, però sarà comunque un ECMeeting credo molto interessante. E in particolare quest'oggi volevo parlare di un lavoro appunto fatto da l'Underscore To, che è un ECLAB torinese. Gli ECLAB sono delle strutture, per chi non lo sapesse, nate tanti anni fa in seno all'ECMeeting. Erano un po' delle specie di emanazioni territoriali per vedersi anche durante l'anno e non solo una volta all'anno, però vedersi fisicamente, non su una chat. Molte di queste cose nate penso ormai più di 15 anni fa, perché nascono all'incirca nel 2000. Sono progetti, diciamo, che hanno trovato la fine del loro corso. L'Underscore, che è l'ECLAB torinese, in realtà è sopravvissuto questi anni ed è ancora attivo, e recentemente ha rilasciato appunto in questa lista un proprio lavoro piuttosto interessante, che si intitola di Trojan di Stato, e in particolare noi oggi analizziamo la parte che si intitola di Trojan di Stato di Tails. È un lavoro che parla di captatori informatici, di Trojan, che per chi non lo sapesse, anche se ne abbiamo già parlato altre volte, però magari non mettendo precisamente l'accento sui termini e non spiegando per bene di cosa si sta parlando. Un captatore informatico è sostanzialmente un programma atto a installarsi su un computer o un dispositivo elettronico tipo un cellulare o cose simili, e fare tutta una serie di attività di sorveglianza, tipo vedere che siti visitate, accendere il microfono, accendere la webcam, e leggere cosa scrivete, prendere i vostri contatti alla rubrica, i vostri contatti Skype, registrare le chiamate e via dicendo. Ecco, è un oggetto di sorveglianza, un oggetto molto molto intrusivo, una sorveglianza molto molto intrusiva. In Italia attualmente è in corso un dibattito, nel senso che c'è una legge delega che dovrebbe legiferare sull'utilizzo di questi strumenti, che finora vengono utilizzati però a seconda, diciamo, dell'interpretazione che il giudice ne dà, e sono legittimi all'interno del processo, all'interno del processo giuridico, oppure no. Ci sono sentenze favorevoli, sentenze contrarie, ci sono sentenze della Cassazione che ne sanciscono la legittimità, ci sono sentenze di tribunali che invece la penalizzano, e quindi niente, è in discussione una legge appunto che passerà come legge delega insieme a altre leggi relative alla sorveglianza. È in realtà una discussione che è iniziata nel 2014, quindi non è detto che sarà, diciamo, se si terminerà a breve. Non sappiamo precisamente poi quale sarà il risultato di questa cosa. Attualmente siamo diciamo in una fase di grossa confusione. In generale sono strumenti in uso alle forze dell'ordine, raramente compaiono nei processi, proprio perché non capendo bene in che modo poi portare le prove acquisite in un processo, cioè il fatto di aver utilizzato un captatore potrebbe anche invalidare il processo e di conseguenza sono tutti un po' titubanti. Sicuramente sono molto utilizzate nella fase, diciamo, investigativa. Non esiste una normativa precisa in merito se non quella generica, quindi un po' ognuno si rifà alla propria interpretazione. L'underscore ha voluto dare il proprio contributo in merito, sottolineando alcune cose interessanti a partire dall'analisi di uno di questi captatori informatici, e in particolare quello che era stato rilasciato in seguito al leak di Hacking Team, cioè questa azienda italiana che produceva appunto captatori informatici, li vendeva un po' in tutto il mondo, quindi anche in Italia. Qualche anno fa questa azienda è stata hackerata e i documenti presi sono stati completamente rilasciati, ma tra le cose, a parte le loro mail, l'ampia documentazione eccetera, è stato rilasciato anche il codice della loro piattaforma. Ecco allora che, a partire da un lavoro che era già stato fatto su internet da alcune persone che avevano preso appunto questo codice, l'avevano rifatto in parte funzionare, l'underscore ha ripreso tutto questo e ne ha derivato un'analisi tecnica, cioè hanno ricostruito la struttura, hanno analizzato, facendo finta, si sono autoinfettati, perché si parla di infezione come per i virus. Alla fine i Trojan sono, i captatori sono quello che noi possiamo definire un malware, cioè una sorta di virus, un po' come lo volete chiamare, sono tutti termini più o meno equivalenti, con sfumature più o meno poco interessanti per noi. Ecco, ne hanno preso uno, l'hanno rifatto funzionare, questo Trojan si chiama Galileo, e anche conosciuto come RCS, e poi hanno scritto un'attenta analisi su quello che può fare e come lo fa. Trovate questo lavoro al sito www.autistici.org/underscore e lì vedete, ci sono un po' di link, uno di questi link si intitola di Trojan di Stato Details, è quello che andremo a spulciare quest'oggi. Allora, la prima cosa che si evidenzia di questo lavoro è che comunque l'architettura non era semplice da ricostruire, loro sono stati bravi in questo senso. Il software è sostanzialmente diviso in diverse parti, la parte, diciamo, del captatore è soltanto quella finale, è un programma piuttosto piccolo, ma che si basa appunto su tutto il resto della struttura. La struttura è divisa in un master, che è, diciamo, la testa di tutta questa struttura. Poi c'è un oggetto chiamato collector, che è sostanzialmente quello che colleziona i dati e ha compito, attraverso una serie di anonymizer, cioè di server messi lì per non far vedere dove finiscono questi dati, quindi per occultare il master sostanzialmente, e di consegnare, e appunto il collector consegna attraverso l'anonymizer i dati raccolti da un target, cioè il captatore. Ecco, questa struttura voi non la vedete mai se avete un captatore sulle vostre macchine. Io vi auguro di no, perché altrimenti vuol dire che avete un problema con la giustizia italiana. Comunque, se avete un captatore sulla vostra macchina, voi siete il target e vedete solo questo piccolo pezzo di codice. Il lavoro dell'underscore appunto è ricostruire tutta questa struttura, ed è ricostruita abbastanza nel dettaglio, anche nei dettagli dell'installazione. Vi guidano nell'installazione, per una questione anche di trasparenza rispetto al lavoro fatto. Ci hanno detto: noi abbiamo fatto così e qui abbiamo documentato quello che abbiamo fatto. E si arriva appunto fino all'utilizzo del captatore, che è interessante perché mostrano appunto queste diciamo, nelle immagini si mostra l'interfaccia. L'interfaccia è costruita sostanzialmente per essere la versione informatica di un'ipotetica indagine, quindi si apre un fascicolo, si raccolgono delle prove e via così. E l'agent, che è la parte forse più interessante da analizzare, ha appunto creato appositamente attraverso un'interfaccia grafica per essere customizzato per il particolare tipo di infezione, cioè se io voglio infettare un cellulare creo un agent per il cellulare relativo, se voglio infettare un computer lo devo creare per il particolare sistema operativo e via dicendo. È abbastanza, diciamo, dettagliata l'installazione. Ad esempio, c'è una roba che loro citano che è come, diciamo, per dire che comunque è un oggetto che si pone di diversi problemi. Dice, ad esempio, nel caso di un'installazione su un cellulare, siccome l'agent fa tante cose, tra queste appunto può anche accendere una webcam, usare il microfono, tutte cose che consumano la batteria, esiste un'opzione che si può abilitare nell'agent che questo parte soltanto se la batteria del telefono risulta oltre una certa carica. E così pure, ad esempio, che ne so, si tenta di mandare indietro le informazioni soltanto se è attaccato ad internet. E quindi fa tutta una serie di, può essere appunto ufficialmente, diciamo, in maniera abbastanza granulare, customizzato per il particolare tipo di target. E poi nel loro lavoro si parla anche dei vettori di infezione, che sono tanti, si parla proprio di vettori di infezione come fosse una malattia, come fosse un virus, che sarebbero i modi in cui questo oggetto viene installato su il computer. Qua ce ne sono diversi, i principali, diciamo, i primi che appaiono nella lista sono quelli per accesso fisico, cioè in qualche modo si viene in possesso di questa macchina, di questo aggeggio elettronico. Tra questi, ad esempio, può essere, tra quelli citati, penso solo come esempi, ma che si riferiscono, penso, a casi di studio abbastanza reali e probabili, forse, non sono sicuro, ma forse derivati anche dagli esempi citati nell'ampia raccolta di mail che è presente anche nel leak, che potete consultare sul sito di Wikileaks, guardando le cose relative appunto al leak di Hacking Team. Ecco, uno degli esempi più citati sono, cioè gli esempi che portano loro, ad esempio un controllo in aeroporto in cui per qualche motivo viene sottratto il computer per dire ah, dobbiamo un attimo controllare, viene portato via e poi torna con l'installazione del captatore informatico. Un'altra possibilità potrebbe essere un semplice controllo oppure una perquisizione o che ne so, portate il computer a riparare, anche potrebbe essere anche questo una cosa di questo tipo. E gli installer che loro offrono sono, diciamo, fisici, cioè si fa doppio clic e parte l'installazione, e citano anche una cosa abbastanza tecnicamente interessante, un po' inquietante, che è il persistent installation, cioè questa agente viene installato in maniera persistente sul vostro computer o telefono, cioè se voi lo formattate loro utilizzano diciamo un metodo di infezione che si installa in un particolare, cioè, in alcuni particolari settori del dispositivo in cui che sono resistenti alla formattazione, cioè sono cose che continuano ad esistere uguali anche dopo la formattazione, quindi voi formattate il device, ma poi l'agente torna a reinstallarsi da solo, o almeno così lo vendono. Altri casi di installazione sono quelli di una vicinanza spaziale all'oggetto, cioè siamo, che ne so, attaccati sulla stessa rete, sono in qualche modo vicino all'oggetto che è collegato in rete e quindi riesco a infettarlo via rete perché sono lì accanto, ecco. Poi ci sono altri casi più atipici, ad esempio se non c'è vicinanza spaziale ma si è comunque collegati alla rete è possibile installarlo chiedendo la collaborazione del proprio provider, tipo Wind, Vodafone. Insomma, quello che ci avete, si può chiedere a loro se ci date una mano, visto che voi ci avete la rete, e tendenzialmente se si controlla una rete si può anche manipolarne il traffico. E questi sono un po', diciamo, i veicoli dell'infezione. Poi c'è l'infezione in sé per sé, nel senso che dopo aver appunto configurato da questa interfaccia di cui vi dicevo prima l'agent come vostro desiderio, a quel punto lo si installa sul device è vittima dell'infezione e si fa girare. Non è nient'altro che un programma, come sono semplici programmi anche, semplici no, però sono programmi anche i virus, i malware e tutte queste cose qua che chi di voi possiede un oggetto Windows ben conosce. Ecco, questo si va a installare, poi gira e cosa fa? E poi acquisisce delle prove. Le prove possono essere di vario tipo, come vi ho detto. Una delle cose che potete fare sul device è ad esempio da remoto, quindi da lontano l'operatore può visionare il contenuto come se voi stesse guardando il vostro cellulare, quindi può vedere il file system, può vedere le cartelle, può vedere i file che ci avete sopra, può anche inserire dei file, può eseguirli, può scaricare il contenuto del device, quindi possono anche prendere i file, può mandare dei comandi e ricevere i risultati dei comandi che manda, e poi ovviamente può accendere il microfono, può guardare gli screenshot del vostro computer, quindi si può vedere periodicamente quello che state facendo uno screenshot periodico dello schermo. Poi ci sono dei keylogger, cioè si può vedere quello che state scrivendo. Ci sono anche delle cose per diciamo captare gli eventi del mouse, quindi si può anche vedere dove state andando dove state muovendo il vostro mouse. Si può anche fare uno screenshot mirato legato al posizionamento del mouse. E poi chiaramente ci sono le foto dalla webcam con una frequenza diciamo customizzabile nell'interfaccia, cioè posso farne una ogni 2 secondi, 3 secondi, 4. In questo modo più è veloce la frequenza della webcam con cui io lo faccio, più assomiglierà a un video in realtà quello che sto facendo, però con l'opzione che molto spesso nei device quando si accende la webcam per fare un video, no? Quando entra in attività si accende la luce, però in realtà se la uso per fare le foto molto spesso io non l'ho mai visto, ma la luce non si accende, quindi posso ottenere un effetto video senza fare direttamente il video. E poi c'è chiaramente la lista dei siti visitati, che viene presa dalla cronologia del browser o dall'analisi del traffico, penso più dalla cronologia. Poi le password salvate dal browser, quindi da Firefox o Chrome. Quando voi non avete voglia di ridigitare la password della posta, fate salvamela. Ecco, queste password che salvate possono venire prese perché sono soltanto un file sul computer. E poi si può, l'interfaccia permette di filtrare tutte queste informazioni, perché possono essere tante, e quindi ci sono dei filtri per dire quello che mi interessa, quello che non mi interessa. C'è poi molto più di questo. In realtà si possono prendere anche tutti i messaggi che si trovano, ad esempio nel caso del telefonino posso prendere quelli rimasti in memoria, quindi posso in qualche modo andare a ricostruire anche quello che è stato fatto, ma prima di aver installato l'agent, quindi non è detto che io installandolo adesso non possa ricostruire quello che è stato fatto settimane prima, a seconda di quante informazioni rimangono sul vostro computer. E poi si possono prendere i contatti, ci sono anche dei moduli per prendere i wallet, Bitcoin, Litecoin e tutte queste varie monete virtuali e via così, insomma si possono fare tante tante cose. E quello che ha messo in evidenza poi l'Underscore nel loro lavoro è che però, ad esempio, quello che io posso fare è anche dare un contenuto arbitrario, cioè io posso fabbricare direttamente una prova fatta apposta, che quindi tendenzialmente in qualche modo il discorso che fanno loro è: ma se io so che c'ho un captatore e costruisco, che ne so, dei finti contatti Skype strambi e poi glieli mando indietro, lui se li piglia? E lui in realtà se li piglia, sì, se li prende. E perché? Perché è difficile riuscire a distinguere ciò che è vero da ciò che no, cioè se io creo un file che di fatto è un file con il formato di contatti Skype e là dentro ci metto un contatto Skype che ne so di 40.000 caratteri, il captatore se lo piglia? Sì, perché tendenzialmente non è detto che faccia della validazione sull'input. E che succede? E loro hanno provato e hanno visto che questo captatore in realtà si rompe, cioè se io gli do dell'input strambo, e lui in realtà si aspetta che l'input sia giusto, perché normalmente non c'è l'input strambo e quindi si rompe. È buffa questa cosa. E loro tendenzialmente il lavoro che è stato fatto era per dimostrare che comunque è molto difficile stabilire la certezza di una prova acquisita in questo modo. È complicato. E quindi sì, tendenzialmente questi captatori informatici sono buffi, almeno questo qua messo, diciamo, di cui si va a parlare, che era quello appunto sviluppato da Hacking Team. Loro l'hanno provato nella sua versione per Linux, quindi hanno infettato un computer con Linux. Tendenzialmente può essere rotto da input sbagliati, e questa non è una buona caratteristica per sancire la veridicità di una prova in un tribunale, diciamo. Loro hanno fatto anche tutto un lavoro di una cosa che si chiama reverse engineering, cioè hanno fatto praticamente questo ragionamento, cioè noi sappiamo come questo captatore è fatto e il sorgente, cioè abbiamo visto anche il codice di come è scritto perché c'è stato questo leak, no? Ma poniamo che noi non avessimo avuto il leak e avessimo dovuto capire cosa faceva il captatore soltanto avendolo preso da un'installazione su un oggetto infettato dal captatore, che cosa avremmo capito? E si sono messi a fare un lavoro appunto di reverse engineering, cioè a partire dal binario, soltanto da quello, si sono messi a cercare di capire che cosa faceva questo oggetto. E il modo in cui l'hanno fatto è abbastanza creativo, è bello, e magari ve lo leggete, io non ve lo dettaglio perché il radio renderebbe senz'altro di meno, e poi probabilmente manco vi interessa così tanto. Appunto hanno fatto tutto questo lavoro interessante di reversing per arrivare poi appunto a fare quello che avevo detto prima, cioè la costruzione di moduli per questo captatore che costruiscano una prova da zero. Cioè io posso costruire un finto screenshot e farlo prendere al captatore facendogli credere che è il mio screenshot del mio video. Sì, tendenzialmente posso farlo, e loro l'hanno fatto, cioè tecnicamente l'hanno fatto. Viene fuori che il captatore, tra le immagini, lo vedete se guardate questo articoletto che hanno scritto, tra i vari screenshot del computer, quelli veri, a un certo punto ne appare uno con un'immagine, ho scritto non solo uno screenshot, perché è un'immagine che loro hanno fatto apposta e ingettata, cioè è inserita poi, fatta digerire al signor captatore. E questo lavoro è tecnicamente anche molto interessante, ecco, io ve ne consiglio la lettura, anche perché appunto è un argomento che, per quanto non sia proprio sul dibattito su tutti i giornali, però effettivamente dall'inizio dell'anno sono apparsi un po' di articoli anche sulla stampa mainstream su questa cosa della legge delega e della discussione del normare l'utilizzo di questi questi strumenti che sono nella loro accezione, cioè nella loro versione attuale, molto molto molto inquietanti, penso che il controllo che possono dare è molto pervasivo, no? Immaginate comunque potrebbe essere, che ne so, possibile effettuare un pedinamento ma senza il pedinamento, cioè io potrei tenere per buono che il pedinamento attraverso l'installazione di un captatore sul mio cellulare in qualche modo sia il pedinamento a me, ma in realtà non c'è nessuna garanzia che io ci abbia il cellulare in tasca, quindi potrebbero pedinare qualsiasi persona che si porti il mio cellulare in tasca pensando che sia io, e questa è una cosa che in realtà compare in alcune applicazioni poi riportate nei processi di questi strumenti, quindi diciamo c'è tutto un fermento che non è che proprio si tocchi con mano nel mondo vero, però insomma ci sono convegni di magistrati, tecnici che discutono di come normare questi strumenti, e se sia il caso. La posizione dell'underscore è una posizione abbastanza interessante in questo senso, nel senso che secondo loro tecnicamente questi strumenti sono molto molto molto potenti e permettono un arbitrio molto vasto, e quindi sono difficilmente normabili, e anzi sarebbe proprio meglio non normarli, cioè così come non è buono o è un po' folle pensare di normare un carro armato o un'atomica oppure la tortura, così pure i captatori si configurano come degli oggetti troppo intrusivi e quindi sarebbe proprio meglio che fossero estromessi dall'utilizzo all'interno diciamo, delle attività investigative, all'interno dei processi, perché appunto danno un potere all'autorità statale che poi va direttamente a ledere i diritti fondamentali dell'individuo. Non a caso c'è grossa attenzione anche da parte delle organizzazioni, delle ONG anche internazionali che si interessano di diritti umani e cose simili sull'utilizzo dei captatori nel mondo, e in particolare viene seguito molto anche lo sviluppo di come evolve la legge italiana, perché ogni singolo stato che si dota di una legge su questi oggetti è potenzialmente uno stato che decide di fare qualcosa di molto molto molto rischioso e quindi è sotto l'occhio di tutte queste ONG. Insomma, il dibattito rimane aperto. Io vi ho posto l'attenzione su questo ottimo lavoro di questo Hack Club torinese. Sicuramente parleremo di questo anche appunto all'ECC Meeting che si terrà a giugno, quindi se vi interessano un po' queste tematiche, continuate ad ascoltarci e ne riparleremo senz'altro. We killed Elvis. I shot Reagan with the help of the Secret Service. Super double agent. Suit your mother with my brother's favorite. 12 gauge waving, aiming at your brain. Strange universe, too famous. Leaving the murder scene blameless. Drug entertainment. Thugs at the blazing laser gun, saying what I wrote. They feel what I feel. They see the same picture. We made the biscuit through the talk, and it became richer. Nobody gets a record deal. You gotta take that shit. Treat the record label like a slut, and then rape that bitch. I keep it simple for these stupid cats, claiming you knew the facts, but in reality, you were trapped. Jesus Christ was a gangster rapper. They killed him, then he came back and made a platinum album. The path I traveled like the dragon shadow, invisible to CIA camera angles. They got a file on every rap group. They killed the last man who had proof. They after me for information that I have too. I'm paranoid, tell me what the fuck they asked you. You fuck around with me and I'ma have to blast you. The CIA trying to kill me, be bad news. Get the fuck up out my way when I pass through. I'm paranoid, tell me what the fuck they asked you. You fuck around with me and I'ma have to blast you. CIA trying to kill me, be bad news. Fuck around with nonfiction, that's a bad move. Symbolism, socialism, live life, lead, learn. Struggle, war, home, drug fiends, the White House burn. Sex, pain, fear, freedom, love, young guns be shooting. Genocide, revolution, lost souls, prostituting. Military confrontation, safe sex and masturbation. Peace to all the homeless people living in the train station. Project Wars, build a one verse four. Lock the door, burn the disc, now everybody hit the motherfucking floor. Brrr, they bustin', I'm a glutton for the shit. I'm number six on their list, next to kissing all these kids. Cause I run with Asians, Latinos and black fists. 5% is Caucasian, thugs who live communist. They broke in my house, planted bugs and number lamps on my couch. They after me, what? Let me find out. I'm not having it. My rap to trap the service like a magnet. The vests get nothing like private parties with no laminates. If I'ma die, I'ma die busting and struggling. I'm hustling for the people, fuck them devils and corruptions. Nothing for nothing, ain't it something how they do? They ID me due to my tattoo. I'm paranoid, tell me what the fuck they asked you. You fuck around with me and I'ma have to blast you. The CIA trying to kill me with bad news. Get the fuck up out my way when I pass through. I'm paranoid, tell me what the fuck they asked you. You fuck around with me and I'ma have to blast you. The CIA trying to kill me with bad news. Fuck around with nonfiction, that's a bad move. Projects for straight jackets, electroshock states, I rock a fallout, traded for royalty rates. Get your drink on, we build the bomb, spit in your face. Smart to change cars, like who's the block, I do it for Chase. Nice spike works, a fancy knife work. Hit the Christ, non-fiction strike in prison night shirts. I pay dues, nothing to lose, steady busting off weapons and tools. When I come home, I'll be smelling shit and furniture's moved. Eat the slug, takes the weight off, I live this for real. I do this for the dead, rest in peace, I'm holding you near. Making up time, 12 years, we on tour, we blowing your back off. Support caps, jack the car seats, take a scalp off. Soldiers of merits, inherited from way back. Cyanide to bullets, spots to follow my stats. We're too futuristic, thugs to robots. Experiments, 4-point restraints in my hypercube on medicines. Paid veterans, crippling souls. It's getting bigger now, the information running the globe. It's just my mechanics, either with the gat or Xanax. Widespread panic until the Sabbath. I'm paranoid, tell me what the fuck they asked you. You fuck around with me and I'ma have to blast you. The CIA trying to kill me, be bad news. Get the fuck up out my way when I pass.